No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Buonasera. Buonasera. Giulia, ci sei? Ciao, buonasera. Ce l'abbiamo fatta. Scusate, i soliti problemi tecnici. Siamo resuscitate. Sì, sono le 17:25, ma siamo online. Ah. Vai, alza sta sigla, va. Ok, ci siamo. Va bene, allora direi che possiamo iniziare. Direi buon pomeriggio a tutti. Siamo in diretta su Radio ZM. Siamo in mega ritardo, ma ce la possiamo fare. Siamo insieme a tutte le compagne ribelli che vi travolgeranno in questa succulenta puntata ricca di contenuti. Sì. Quindi direi non schiodatevi dal divano e ascoltateci, punto, è una regola. Esatto, siamo prontissime. Qui al mio fianco c'è Andrea in ciao, regia. Ciao, ciao, con la supervisione di Gioia. E... Poverine. Sì. Ragazzi, faremo, sarà divertentissimo. Ma sì, ma ci divertiamo. Abbiamo Giulia in collegamento Zoom. Da Edimburgo vi saluto con tanto tanto affetto. Lady J che ci guarda nel suo grande splendore, sempre in collegamento Zoom. Ciao! Oggi e in versione Regina dei Ghiacci. Vabbè, bando alle ciance. Direi che prima di ogni cosa possiamo iniziare a ricordare i canali social, carissime. Certo. Io ci provo, eh. Ricordiamo subito la pagina Facebook Radio ZAM ZM. Poi il nostro canale Telegram per scriverci in diretta, chiocciola Radio ZAM trattino basso chat. E poi abbiamo anche il fantastico e futuristico sito web www.zam-milano.it. E anche la pagina Instagram Radio Zammi Sud, tutto attaccato con due M. E poi la fantastica e splendida pagina Instagram delle ribelli, le-ribelli-zam. E io direi che, se Giulia sei d'accordo, ma mi sentite bene? Si sente tutto benissimo? Spero di sì. E proprio, sì. Potremmo partire con un pezzo, per scaldarci, no? Lanciamo la prima canzone? Vogliamo il pezzone, dai. Adesso... Prima canzone scelta accuratamente da chi? Chi è che ha scelto la prima canzone? Da chi? Chi ha scelto la prima canzone? Non so. Chi è che avrà scelto la prima canzone? Ma qual è la prima canzone? Lady J, ovviamente. Dai. E via. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie. Questa era ovviamente Barbie Girl degli Acqua, giusto per introdurre la puntata. Benissimo, allora, io introdurrei subito l'argomento di questa domenica che ormai sta finendo, nel senso che sta finendo la giornata, e introdurrei la nostra tematica attraverso la voce della piccola Sophie, che è ormai la nostra apripista, apridanze, delle puntate dedicate ai più piccini e alle più piccine. Parleremo di educazione alla bellezza dagli occhi dei più piccoli, e se non l'avete ancora capito dai nostri canali, sarà una puntata, come potremmo definirla, fresca e giovane. E quindi direi che adesso facciamo partire la telefonata alla nostra alla mamma di Sophie. Vediamo se funziona tutto. Vediamo se si dovrebbe sentire. Io sento. È un po' basso, forse. Pronto? Pronto, Virgi, ciao. Ciao. Sei in diretta. Ciao, Virgi. Sei in diretta su Radio ZAM, sulla Radio delle Ribelli. Ciao. Evviva. Come state? Ma bene, bene, bene, dai, tu? Tutto bene. Eravamo qui ad aspettarvi, intanto cantavamo Barbie Girl. Beh, buon anno intanto, anzi, buon anno a tutti, non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo detto, è finalmente il 2021, buon anno anche a voi. Ma la piccola Sofì immagino che sarà lì, vicino a te. È vero, ma io sono sicura che la piccola Sofia avrà sicuramente preparato qualcosina di succulento. Ormai lei è la protagonista di queste puntate, la sua voce è, è l'apripista, come dicevamo prima. E noi benissimo, allora io direi. Vai. Cedo gli auricolari. Ok, allora tieni il destro qua. Ti sentono. Ciao Sofì. Ciao. Ciao Sofì, come stai? Bene. Che bello sentirti. Non so se ti ricordi di me, ti avevo già telefonato forse qualche tempo fa. Sono Tecla. Sì. E mi ricordi quella bellissima storiella che ci avevi letto. E che cosa ci hai portato oggi? Mamma mia. Non li avevo mai visti. Non mi sono piaciuti perché le bambine mi hanno fatto un po' di pena. Certo. Sono venute in mente delle cose. Allora, che le bambine erano costrette a partecipare al concorso e forse anche a vincere per non deludere le loro mamme. Che forse le loro mamme insistevano così tanto per almeno, perché almeno potevano mettere la foto del loro premio su Instagram, TikTok, YouTube e Facebook per essere seguite. Certo. Ma sei una pioniera, hai praticamente introdotto la nostra puntata. Bravissima, quale Sofì. Quale voce migliore poi per introdurla? No, ma ti ringraziamo noi. No, perché queste, Sofì, sono esattamente le riflessioni che abbiamo fatto anche noi, effettivamente. Esatto. Poi un'ultima cosa, che per loro la bellezza è la cosa più importante di tutte e non vedevano cose che c'erano dentro di loro, il coraggio, la simpatia, la gentilezza, la bravura, la voce e il sorriso. Mamma mia. Queste cose mi hanno fatto essere un po' in pena per quelle bambine così piccole. Ho cercato nei libri e nei racconti che ho a casa, se trovavo qualcosa che riguardasse questo tema, però non ho trovato niente. Ma ho tante storie che parlano di ragazzi, ma nessuna di queste racconta di un concorso di bellezza. Ma le storie di ragazze raccontano le loro avventure, però nessuna di queste riguarda un concorso di bellezza. Questo mi ha fatto capire che essere belle non è importante, perché nessuno ha mai scritto un libro su questo, o almeno io non ce l'ho. Però io volevo lo stesso leggere qualcosa, così ho trovato una storia che parla di furbizia e saggezza. Sentiamola allora. Vai. E si intitola l'indovinello dello zar. Allora, lo zar aveva fatto prigioniero il capo dei ribelli. La figlia di questi andò da lui per supplicarlo di graziare il suo amato padre. Era una fanciulla giovane e bella, ma lo zar la guardò ironicamente. «Libererò tuo padre e per giunta ti sposerò», le disse, «se sarai capace di risolvere un indovinello. Se non ci riuscirai, tuo padre sarà ucciso e tu verrai data in sposa al mio straniero». «Va bene», disse la fanciulla. «Qual è l'indovinello? Deve venire da me, né vestita». «Né vestita, né nuda», disse lo zar, «né a piedi, né a cavallo, né con doni, né senza doni». Il giorno dopo la ragazza si presentò davanti allo zar ricoperta da una fitta rete da pesca, in modo che non era né vestita né nuda. Si mise a cavalcioni di una lepre, così che non era né a piedi né a cavallo. Prese tra le mani una quaglia che lasciò volare di fronte allo zar, così che si era presentata sia con doni sia senza doni. Lo zar, che ammirava le persone d'ingegno tanto quanto ammirava quelle coraggiose, mantenne la parola, liberò il suo coraggioso nemico e sposò l'ingegnosa fanciulla. Fine. Wow, Sofì. Wow. Ma senti, ripetici un po' qual è il titolo di questa storia. L'indovinello dello zar. E da dove l'hai presa? Da un libro molto è raccontato da Gianni Padoan, che si intitola 366 e più fiabe. Ma senti Sofì, ma noi dobbiamo assolutamente farti venire in radio e sei ormai più brava di noi a condurre. In realtà faremo una rubrica dei libri che ci consigli, delle storie che ci consigli. C'è grande emozione qui sul divano. Grazie Sofì. Poi soprattutto, guarda, ti posso chiedere un favore Sofì, siccome abbiamo avuto dei problemi con l'audio, quindi quelle cose molto interessanti, intelligenti che hai detto all'inizio quando parlavi di cosa hai trovato su YouTube, non si è sentito molto bene. Avresti voglia di ripeterci che cosa hai trovato su YouTube quando hai cercato i concorsi di bellezza? Ok, allora. Grazie. Ho guardato su YouTube qualche immagine dei concorsi di bellezza delle bambine. Mm-hmm. Però io non li avevo mai visti. E non mi sono piaciuti perché le bambine mi hanno fatto un po' di pena. Certo. E fine poi. Ok. Basta, volevo solo farti ripetere questo pensiero perché è molto emozionante sentirlo dire da una bimba. Sì, che riesce appunto a cogliere. A cogliere quello che succede in questi casi, no? E fare anche una immersione psicologica in loro, insomma. Esatto. Grazie Sofia. Allora a questo punto ci salutiamo perché abbiamo veramente una puntatona oggi. Continuate ad ascoltarci, ragazze. E Gioia ti saluta. Ti saluta Gioia, Sofì. Ti saluta anche Gioia, ti ciao. Salutiamo, sei bravissima. Ciao. Ti saluta ed è qua vicino a noi, tra l'altro. Gioia, vieni a salutare Sofì. No, ti saluta comunque. E, va bene, ragazzi, allora noi ciao, vi salutiamo. Gioia. Ciao, ti Gioia. Salutano. Niente, devi venire a dire un ciao. Devi Gioia. Venire a dire un ciao, dire Gioia. Un ciao. Ciao Sofì. Io sono un po' in difficoltà perché c'è un po' di casino qua in radio, ma siamo sul pezzo e spero che ascolterai tutta la puntata. Sì. Va bene. Allora ci salutiamo, ragazze. Buona domenica e buona continuazione. Grazie tante, ciao. Sofì. Ciao. Ciao. Grazie per averci chiamato. Ciao. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao. E adesso mettiamo su una canzone e poi riprendiamo. E... direi di sì, ma annunciamolo questo titolo. Certo. Che cosa ci ascoltiamo? Super Freak di Rick James. Yeah. Mi viene sempre da ridere ogni volta che devo finisce la musica e boom, si parla. Vabbè, bene, bentornati, sono le 17.48, siamo online su Radio Ribelli, c'è Giulia qua in connessione con l'ospite. Giusto? Ciao. Direi che ora possiamo entrare nel cuore della nostra puntata. E come già anticipato, discuteremo di educazione alla bellezza. Ringraziamo Sofì per averci introdotto egregiamente i contenuti di quello di cui andremo a parlare. Infatti tutto ciò lo vedremo appunto dagli occhi dei più piccini, dei ragazzi e delle ragazze. Che cos'è la bellezza? Educhiamoci alla bellezza. E come ci educhiamo alla bellezza? L'ho detto troppe volte, vabbè. Ed è la nostra domandina ribelle, giusto Giulia? Certo. E, parleremo dei canoni imposti dalla società con un'attenzione particolare ai concorsi di bellezza per le bambine. E ora direi che io passerò la parola a Giulia e alla nostra ospite, della quale non dirò il nome, perché lo dirà lei. Prego. Allora, sì, ciao a tutte di nuovo e a tutti. Oggi abbiamo con noi una mia carissima amica e anche ex alunna, diciamo, che è Greta, che ha fatto una bellissima tesi appunto sui concorsi di bellezza per le bambine e mi ha onestamente aperto un mondo, perché io non ne conoscevo, non conoscevo nulla a riguardo, quindi era una tematica di cui onestamente non mi ero mai... cioè non ne sapevo neanche l'esistenza, e lei invece ha fatto, appunto si è appena laureata in triennale in scienze della comunicazione all'Università di Torino e ha fatto questo bellissimo elaborato in cui ha preso in analisi un film che per chi vuole approfondire il tema appunto può guardare, Little Miss Sunshine, e è andata ad analizzare dal punto di vista semiotico il film con un'attenzione appunto particolare ai concorsi di bellezza per bambine. Il contesto è quello degli Stati Uniti, perché lì purtroppo esistono e sono molto attuali, come ci ha detto Sofì, ci sono anche tanti video su YouTube per chi appunto vuole farsi un'idea di cosa siano, e penso di aver detto abbastanza e chiederei a Greta, che ha scritto tra l'altro benissimo questa tesi, di spiegarci un po' qual è stata la sua conclusione della tesi. Vai. Allora, ciao ragazze, innanzitutto grazie per avermi invitata. Come grazie ha detto Giulia, la tesi aveva come obiettivo un'analisi sui retroscena dei concorsi di bellezza per bambine in America. E la cosa che ho potuto notare, come pensate anche tutti voi, la dimensione delle bimbe viene spesso vista come una dimensione fatata, un mondo puro. All'interno di questi concorsi, però, questo mondo puro viene proprio invaso da delle ombre appunto degli adulti, e queste bambine vengono trasportate in un mondo innaturale e artificiale che proprio non le appartiene. Infatti spesso sono soggette a frasi come le bambine belle devono essere posate, le bambine belle non sono dei maschiacci. E tutto questo quindi non le porta neanche a scrivere di fare questo. E queste frasi che loro si sentono dire hanno tutte un denominatore comune, ossia queste bambine vengono riconosciute come un prodotto della società, un prodotto in un certo senso venduto da questa società con uno stampino alle quale le bimbe devono sottostare e nel quale si devono soprattutto rispecchiare, dimenticandosi così del fattore umano che caratterizza invece ogni piccola. Quindi crescendo in un immaginario del genere, le bimbe sono portate a dover essere sempre perfette e impeccabili. Certo. La conclusione però a cui si arriva è che tutta questa perfezione che loro ricercano sarà poi la loro più grande debolezza andando avanti nel tempo. E non sono solo, diciamo, riflessioni, ma sono delle vere e proprie prove e risultati che derivano da ricerche compiute da scienziati, i quali dimostrano che proprio queste baby miss, ex baby miss, siano poi soggette a problemi di autostima e anche nella socializzazione, perché non si sentiranno mai sicure di sé, pensando sempre di dover dare il meglio. E una frase che mi ha molto colpita di uno scrittore famoso, Massimo Bisotti, è stata i fuochi d'artificio sono belli, ma le stelle lo sono molto di più. Questo sarebbe una conclusione che dovremmo ricordare a tutte le bambine, lasciando la libertà di sbagliare, ma soprattutto essere imperfette, perché è nell'imperfezione che sta la loro bellezza, e dovrebbero essere educate a questo genere di bellezza, cioè di imperfezioni. Mi sono quasi commossa a queste parole, dal modo eccelso con cui le hai presentate. No, veramente, brava, grazie per questa spiegazione chiarissima. E ci puoi anche dire qualcosa su come sono nati questi concorsi di bellezza? Sì, il loro nome originario è Child Beauty Pageants e nascono in Inghilterra già dal 1881. Inoltre si scoprirà poi che colui che ha creato questi concorsi di bellezza, il primo in assoluto fu il May Queen Festival. Si scoprirà che l'organizzatore era un pedofilo, e questo purtroppo la dice lunga su questo genere di fenomeno. Però appunto questo fenomeno aveva già preso piede negli anni 20 in America, diventando proprio una cosa che catturò l'attenzione di tutti, perché come sappiamo comunque gli Stati Uniti sono molto attratti dalla spettacolarizzazione e i concorsi di bellezza per bambine la rappresentano a pieno, perché vediamo delle mini adulte trasportate all'interno. Inoltre si suddividono in Child Beauty Pageants Natural and Glitz. I glitz sono quelli più particolari e infatti che richiamano di più l'attenzione, perché le bambine sono proprio agghindate come delle mini donne, si vedono proprio indossare dei bustini, dei tacchi, truccate con le ciglia finte e tutto quanto, mentre i natural non hanno molto, non hanno creato molto scalpore, perché di per sé le bimbe sono naturali come appunto dovrebbero essere alla loro età. E addirittura nei glitz le bimbe vengono travestite con delle imbottiture finte e minigonne per richiamare proprio le forme adulte, ma questo è anche molto rischioso, perché appunto come abbiamo detto potrebbe richiamare i pedofili in generale, che potrebbero ricercare le loro vittime all'interno di questi concorsi, certo, perché le bambine tendono ad essere molto esposte. Certo. È agghiacciante tutto ciò, veramente agghiacciante, io trovo. Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, Greta, come tu bene hai detto, in America vanno proprio matti per questo genere di trasmissioni alla fine. E sì, ci sono dei veri e propri oltre a dei social che sono tipo Google, ma dove all'interno cercare unicamente consigli per queste bambine, ma ci sono anche dei veri e propri coach che preparano le bambine per questi concorsi e per queste sfilate. Caspita. Proprio un business dietro, sì, queste cose. Le cifre vanno dai 3.000 ai 5.000 dollari, e ovviamente poi le vincite sono più alte, perché io credo che sia anche questo che spinga i genitori a forse dimenticarsi dell'aspetto umano delle bambine, perché in quel momento hanno come dei paraocchi verso le vincite effettive. Sì, sì, verso la vincita economica. Sì, perché poi infatti anche nella tesi spiego come quanti soldi girano appunto dietro questo business, perché sia per la preparazione e poi appunto nelle vincite. Mi sono chiesta come potesse essere che per dei concorsi per bambine, effettivamente diceva, cioè, tu parlavi anche dei tassi delle iscrizioni che vanno dai 50 ai 500 dollari, sì, anche le cifre poi per i vestiti propriamente, come dicevate prima, sono... E soprattutto ci sono delle interviste dove appunto le bimbe dichiarano che di non fare merenda piuttosto che non mangiare la fettina di torta, perché sennò non sarebbero potute entrare nel vestito e negli abiti per la sfilata. E queste bambine delle quali tu stai parlando, cioè sono piccolissime, giusto? Hanno sì, dai 6 anni circa. E quindi poi da qui tutte le malattie che poi comportano l'anoressia. Sì, assolutamente, no? Dai disturbi alimentari, ma proprio anche disturbi a livello mentale. Tenendo conto che la fascia d'età va dai 3 ai 16 anni, una bambina di 3 anni trasportata già in un contesto del genere vede come normale dover fare delle sfilate, trovarsi ad indossare questi tacchi, sentire continuamente la pressione, ma in realtà non è un contesto normale. Certo, e mi vengono a questo punto i brividi, come la prima volta che mi hai presentato questo argomento. E tu tra l'altro fai riferimento ad uno degli scandali più gravi sì, legati a questo ambito, a questo ambiente, che è lo scandalo Botox. Cosa sì. è successo? Diciamo, il retroscena che mi ha colpito di più in assoluto è stato lo scandalo Botox, ossia Carrie Campbell, che è una mamma di una baby miss di 8 anni, statunitense, ha dichiarato di aver iniettato più volte alla figlia del Botox e l'ha fatto con un'innocenza tale da far sembrare normale questa pratica sui bambini, cosa che assolutamente non è, perché appunto gli stessi dottori dichiarano che il Botox va utilizzato unicamente per correggere o disturbi di strabismo o neurologici, anche perché ricordiamo che una corporatura di una bimba di 8 anni è ancora in pieno mutamento. E la cosa ancora più scioccante è che questa mamma non si è limitata a delle dichiarazioni, ma ne ha dato proprio una vera prova e dimostrazione televisiva. E l'altra, diciamo, l'altro aspetto più agghiacciante è stata la risposta della bimba, la quale afferma che sì, le fa male l'iniezione del Botox, ma la aiuta ad essere più bella e vincere i concorsi, quindi è una cosa che lei sopporta piacevolmente. E questa cosa non la spaventava neanche tanto, perché ha sempre visto la sua mamma iniettarlo su di sé. Quindi il problema si poi pone anche davanti ai modelli che queste bambine hanno, perché non è normale che delle bambine sappiano già cosa sono le rughe e che cosa sia il Botox. Questa è assolutamente. Questa, poi parliamo di educazione, capisci, no? Esatto. Scusa, volevo dire una piccola cosa, perché io ho davanti qui la tesi di Greta e l'immagine agghiacciante di questa bambina che con dei puntini, voglio dirlo perché vorrei descriverlo agli ascoltatori, no? Ci sono tutti questi puntini in faccia e si vede la siringa che entra sotto al ciglio della bambina e direi che è una cosa mostruosa. Decisamente. Beh, dopo questo intervento intenso che io rimango sempre molto scossa, sono anche una persona ipersensibile, però rimango sempre molto scossa a sentire queste cose e vedere anche certe immagini. Che ne dite se facciamo una pausa con una bella canzone? Con una bella song. Vada, signorina Andrea, oggi ci illustri. Andrea DJ. Allora, Gwen Stefani, Hold Back Girl. E poi ne parliamo un secondo. A voi. Talking shit and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. for a bitch is hard. Bentornati e procediamo, continuiamo con la seconda parte. Vi ridò la parola, ragazze. Sì, eccoci, dopo queste meravigliose canzoni. Allora, eravamo appunto rimaste con Greta, spiegazione del, appunto del, dei concorsi di bellezza per bambine, che come ci diceva è una storia lunga, cioè non sono cose recenti, insomma, sono programmi di lunga data. E infatti già nell'82 tu presenti un'opera di Neil Postman pubblicata nell'82 che ci parla della scomparsa dell'infanzia legata a questo tipo di programmi, di spettacoli. Cosa intende lui per scomparsa dell'infanzia? Allora, Postman riconosce l'infanzia come il risultato di un ambiente dove i genitori e le persone adulte in generale è come se filtrassero le informazioni, gestiscono le informazioni e i tempi per trasmetterle ai bambini in modo graduale. E questo succede al fine di evitare che i bambini siano spaventati all'entrare nel mondo degli adulti. Che quando arrivino a questo mondo degli adulti siano resistenti e capaci di restare appunto all'interno. Il problema avviene nel momento in cui ci sono due concetti chiave dell'infanzia, che sono il senso di pudore e il divario delle conoscenze tra il mondo adulto e il mondo bambino. Purtroppo con l'avvento della televisione e dei nuovi mass media, le informazioni che prima erano riservate al mondo degli adulti tendono adesso ad essere, possibili per anche i bambini, e quindi i bambini si trovano esposti allo stesso genere di informazioni. Il problema sorge nel momento in cui non ci sono più argomenti da trattare con i bambini nelle loro tappe di sviluppo. Inoltre, venendo a mancare il senso di pudore, viene a mancare anche la tutela verso i più piccoli, e soprattutto la televisione non è in grado di mantenere i segreti del mondo adulto, perché ci sono un sacco di immagini che i bambini si trovano a dover vedere, anche magari semplici messaggi nei cartoni o film più comici, e di conseguenza sono già quasi preparati sul tutto. Sì, mi viene, scusa se ti interrompo, ma mi viene da pensare che poi spesso a questo non segue però una spiegazione, cioè non esiste poi un dialogo da parte dei genitori, ad esempio, no? Perché a volte no, esatto. Capita sempre meno di vedere dei bambini che chiedono delle spiegazioni riguardo a un qualcosa o a determinati fatti che magari dovrebbero essere indirizzati a dei ragazzi un po' più grandi. Sì, ormai si sentono anche dai più piccoli alcuni argomenti che magari un tempo non si sentivano. Certo, anche sono introdotti appunto a tematiche di sessualità, senza però esatto. Che poi a questo ne segua una spiegazione giusta per la loro età, anche da parte dei genitori, eccetera. Vedono come naturali alcune tappe che in realtà ancora non dovrebbero essere naturali per mm-hmm. loro, cioè c'è proprio un bruciare le tappe in questo caso. Sì, sì, sì. E sì. Una frase carina che ha detto Postman, che mi ha molto colpita, è stata: i bambini hanno assaggiato il frutto proibito del mondo adulto e vengono cacciati dal paradiso dell'infanzia, perché di per sé è così. Mm-hmm. Certo, vengono anche derubati, sì. Dell'età, appunto, sì. Dell'infanzia, dell'innocente. E poi, ovviamente, parlando di concorsi di bellezza, visto anche appunto quanto ci hai detto riguardo al suo ideatore, che appunto è stato poi scoperto essere sì. Un pedofilo, legato a questi concorsi di bellezza non si può tralasciare la tematica dell'ipersessualizzazione delle bambine. Assolutamente. Che cos'è? Per chi allora, non ha mai ok, è normale se non si è mai sentita, perché comunque è un neologismo, quindi è una nuova parola nata nell'ambito psicologico. E significa, diciamo, l'eccessiva esposizione a stimoli sessuali e le conseguenti reazioni. E questo è dato proprio dalla società in cui ci troviamo, perché c'è un'immoderata esposizione a questi stimoli. Ma attenzione, non ci stiamo riferendo solo a, diciamo, dei contenuti pornografici espliciti, cioè stiamo parlando appunto anche di questi concorsi, di esibizioni di bambine che alludono a quella malizia che c'è negli adulti. Infatti il problema è proprio che alle bambine viene trasmessa questa idea che avere della malizia alla loro età va bene, perché il senso comune comunque ritiene che vada bene anche per le donne, lo dà per scontato, anche se non dovrebbe essere una cosa così mm-hmm. obbligatoria e ovvia. Però è ancora più grave quando si tratta di queste bambine che vengono proprio adultizzate, trasportate mm-hmm. a dover avere mosse provocanti, atteggiamenti provocanti. E questo è un problema, perché le espone, e quello che bisognerebbe invece fare è valorizzare il corpo delle bambine, ma senza doverlo esporre, esibire o portarlo proprio ad una vera e propria mercificazione di questo corpo, perché alla fine si parla di questo. Certo, assolutamente. Infatti poi tu scrivi anche che ci sono state delle varie ricerche anche portate avanti dal Girl Scouts, no? Research Institute, per quanto riguardava l'autosessualizzazione. Sì, assolutamente, ma ci sono state fatte un sacco di prove, perché la prima ricerca che ha fatto questo istituto è stata quella a sondaggio sulle bimbe, dove chiedevano se preferivano giocare con una bambola vestita in maniera provocante, quindi con la gonnellina un po' più corta, oppure una bambola un po' più, diciamo, umile, moderata, con questo vestitino bianco normale. E la cosa scioccante è stata che la maggioranza delle bimbe ha deciso e ha detto che avrebbe preferito giocare con la bambola appunto più provocante, ma soprattutto che avrebbe voluto assomigliare a quella bambola. E il messaggio che stiamo mandando è proprio quello, che le bambine, in generale comunque anche i bambini, dovrebbero basare tutto sul loro aspetto estetico, ma è sbagliatissimo. Ma veniamo cresciuti così, d'altronde, cioè, mi viene da dire, perché sì, io se ripenso a me da piccola, esatto. Cioè io volevo assomigliare alla mia Barbie. Esatto, cioè, anch'io stavo pensando alle Barbie. Sì, anch'io stavo pensando alle mie Barbie. Sì. O le braccia, le braccia. Assolutamente sì. E un'ultima attenzione, però io prenderei ancora qualche minuto, perché in tutto ciò non è che le bambine possono fare queste cose da sole, no? No, cioè, assolutamente. C'è il ruolo dei genitori. Sì, esatto. Che come abbiamo detto all'inizio, cioè, mi verrebbe da, nel senso, dire... L'unica cosa che credo è che siano accecati dalle vincite a livello economico, però è un grave problema, perché leggendo anche altre informazioni ho trovato che molto spesso quello che succede è che le mamme di queste baby miss sono a loro volta ex baby miss, ed è come se nelle bimbe si ritrovassero, cioè vorrebbero, diciamo, quel successo e futuro che loro non hanno potuto avere, ma questo le porta ad essere molto severe nei confronti delle loro figlie, e spesso assumono quasi il, diciamo, il ruolo di manager, dimenticandosi però di avere un ruolo da mamma che dovrebbe essere più importante, assolutamente. Ok, ok. Ma... Sì. No, vai, cioè, la conclusione generale era di fare due passi indietro, secondo me, e tornare ad essere un po' più umani. Certo, assolutamente, assolutamente, non possiamo che trovarci d'accordo con questo. Non so se te, Cla, hai qualche No, perché riflessione. Mi viene, mentre ti ascolto, Greta, mi vengono in mente un sacco di cose, un sacco di riflessioni che adesso dirò ad alta voce, del tipo, cioè, ma queste bambine poi, cioè, come crescono? Come sarà questa adulta? Come diventerà quando sarà una persona adulta? Cosa le succederà? Le prove che ci sono state fino adesso, infatti, sono quelle di disturbi a livello alimentare, perché appunto comunque principalmente si basa tutto su quello. Cioè, le stesse scene del film facevano vedere il genitore che diceva di non mangiare il gelato alla bambina perché nessuna miss mangia il gelato per vincere, ma poi proprio anche a livello di autostima ci sono problemi. Certo, anche perché se ti rifai dei modelli impossibili passerai, sì, esatto, tutta la tua vita. E poi ci si sente sempre in gara. Certo, ad essere in competizione, infelice. Sì, in competizione, infelice, e ci si sentirà sempre non giuste in qualsiasi momento, in qualsiasi momento, sì, in qualsiasi momento della tua vita, in qualsiasi situazione della tua vita, sicuramente. Bene, io direi che sei stata più che esaustiva, è un argomento molto interessante. Invito appunto tutte le persone che ci stanno seguendo, se sono curiose, appunto, di andare a vedere questo film, Little Miss Sunshine, che si trova online, penso. Sì, mi sono guardata oggi il trailer, comunque un film abbastanza conosciuto. Sì, questa, sì. Bimbettina, anche... un po' cicciottella, molto tenera. Ma poi anche divertente, un film molto divertente, sì, molto ironico, sì, sì. Sono vari personaggi molto, insomma, caratteristici, molto bello. E ci sono tantissimi video su YouTube, noi sicuramente poi andremo ad indicare anche qualche spunto di riflessione. Ma senti una cosa, Greta, innanzitutto volevo chiederti, ma tu quanti anni hai? Così, giusto per... 21. 22, anni. Scusami. 22 anni, cavolo, ma ti faccio i complimenti per il tuo linguaggio, perché è Grazie. Stato veramente perfetto, pulitissimo e veramente un'ottima tesi, davvero. Grazie di essere stata nostra ospite. Grazie mille, Greta. Grazie ragazze, buona continuazione. Sì, grazie. Ti dedicherò questi due brani che staranno per partire, che ho pensato proprio per la tua tesi. Va bene, grazie. A te. Partiamo. Vai, Andre. Ti salutiamo con Sei bellissima di Loredana Bertè. Gentilissime, grazie, siete dolcissime. Strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno,

get ourselves sprung. Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine. You're one of a kind. But you mash up my mind. You are figure decline. Oh, Lord. My baby is driving me crazy. Watching movies all the time. Oh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Oh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you have to get declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. Sin and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys. You're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind. And I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal, suicidal, suicidal. E rieccoci. Bentornati, siamo di nuovo online, sono le 18:28 e questo abbiamo ascoltato. Avete appena ascoltato Beautiful Girl di Sinking Stone. E ora possiamo direi arrivare alla conclusione della nostra puntata e volevo ringraziare tantissimo Greta per il suo contributo che ci ha illustrato alla perfezione che cosa sono i concorsi di bellezza per delle bambine e le problematiche che comporta sulla psicologia di esse. E Greta, mi sono permessa di dare voce a una bellissima poesia di Margaret Atwood che hai inserito all'interno della tua tesi. E vuoi annunciare tu il titolo? Ecco, mi scusa, avevo tolto l'audio per lasciarti tranquilla. Tutto lo spazio. Comunque, allora, si chiama Una camicia rossa e sono sicura che la leggerai al meglio. Va bene. E interpreterai. Ma guarda, lo spero anch'io. Adesso, siccome sto usando il computer, devo raggiungere il testo. E quindi diciamo che mi hai fatto secondo un gran... me vai, raggruppa vai. Un po' tutto quello che abbiamo detto, però appunto ricordandosi e toccando a livello umano ed empatico di questo argomento. Bene, grazie. Allora, una camicia rossa. Mia sorella e io cuciamo una camicia rossa per mia figlia. Lei appunta, io orlo. Passiamo le forbici avanti e indietro sul tavolo. I bambini non dovrebbero vestire di rosso. In alcuni paesi è il colore della morte, in altri della passione, della guerra, della rabbia, oppure del sacrificio, del sangue versato. Una bambina deve essere come un velo, un'ombra bianca. Esangue, quale la luna sull'acqua. Non minacciosa. E dovrebbe stare zitta e rifuggire dalle scarpette rosse, dalle calze rosse, dal ballo. Ballare con le scarpette rosse ti ucciderà. Ma il rosso è un colore nostro, per diritto di nascita. Il colore della tesa gioia e del dolore traboccante che ci unisce l'una all'altra. Chine sulla tavola, la pressione costante della gravità terrestre ci accartoccia il corpo, ci tira giù. La camicia che facciamo è macchiata dalle nostre parole, dalle nostre storie. Le ombre che la luce getta sul muro dietro di noi si moltiplicano. È una processione di vecchie madri coriacee. Ultimo quarto di luna prima della notte nera. Madri come guanti portati hanno assunto la forma delle loro vite, passando il lavoro di mano in mano, di madre in figlia, una lunga scia di sangue rosso, mai interrotta. Lascia che ti racconti la storia della vecchia donna. Primo, lei tesse il suo corpo. Secondo, lei tesse la tua anima. Terzo, è odiata e temuta, ma non da quanti la conoscono. È lei la strega che ha bruciato alla luce del giorno e per la quale sei scappata di casa la notte, per consultarla e corromperla. Dall'amore che ti ha torturato, tu incolpi lei. Lei può cambiar forma e come tua madre è coperta di pelo. La Madonna nera ornata di gambe e braccia in miniatura, come stelle di latta a cui tutti offrono la loro agonia e rosse candele quando non c'è più altro aiuto o conforto. E ancora lei. È gennaio, piove, è un grigio giorno ordinario. Cara figlia, vorrei che la tua camicia fosse solo una camicia, senza incantesimi o fiabe. Ma fiabe e incantesimi sciamano qui, in questo mondo di gennaio, ci rinserrano come muri di neve. Pochi di loro ti sono amici, ma sono forti, potenti come virus. Come virginei, angeli danzanti su capocchie di spilli, potenti come cuori di puttana strappati dal petto perché si pensava fossero d'oro puro, o pesanti come gioielli immaginari per cui tagliavano la gola agli ebrei. Può non essere vero che un mito ne cancella un altro. Tuttavia, in un angolo dell'orlo, dove nessuno lo vedrà, dove tu lo erediterai. Metto questo piccolo punto, mio incantesimo privato. La camicia ora è finita. Rossa, con fiori viola e bottoni di perla. Mia figlia se la mette, felice del colore che non significa niente per lei, tranne che è caldo e luminoso. A piedi nudi corre attraverso la stanza, scappa da noi un nuovo gioco, agitando le rosse braccia con gioia. E l'aria esplode di bandiere. Margaret Atwood. Mi sono accartocciata, ma ci sta. Bene. È andata benissimo. Grazie, grazie, grazie Greta, molto bella. Mi sono proprio lasciata trasportare da questa poesia. Sei stata bravissima. Ma a parte l'incartucciamento, però dai, è andata bene. Signorine belle, io direi che adesso lanciamo un altro pezzo e sì, poi ci salutiamo. Sì. Vai, vai Andre, che cosa ci ascoltiamo? You make me feel like a natural woman. Aretha Franklin. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Di nuovo, sempre bello entrare così, vero, dopo le canzoni, bello. Poi con Aretha Franklin, questo è proprio un pezzone. Grazie le DJ. E sì, la DJ non c'è più, però grazie. No, credo, grazie le DJ perché ha scelto lei. Le esatto, canzoni. Credo ci stia ascoltando comunque. Comunque sì, abbiamo... sì, ci ascolta, ci ascolta. Ci ascolta, ci ascolta. Bene ragazze, siamo giunte ai saluti e io volevo ricordare i canali social dove poterci contattare. Vado a cercarli, ci sono. Allora, ricordiamo anche l'archivio, mi raccomando, dove trovare i nostri podcast ed è appunto è su Archive Radio Z-AM. Poi vai Tecla. Poi abbiamo la pagina FB Facebook Radio ZM, il canale Telegram per scriverci in diretta, chiocciola Radio ZAM trattino basso chat, il sito web, bellissimo sito web tra l'altro, vorrei sottolineare, www.zam-milano.it, la pagina Instagram della radio, Radio ZAM Misud con due M. La pagina delle ribelli, le trattino basso ribelli trattino basso ZAM, sempre grande tutto Tecla pieno di trattini. Questo è il momento più complicato, voi non avete idea. I nostri ascoltatori, i canali è sempre un momento tragico, difficilissimo.

no fighting.